24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il summit straordinario dell'Eurozona che si è concluso con l'accordo per il varo di un nuovo pacchetto di aiuti per Atene. Oltre alla crisi economica vi terremo aggiornati sulle ultime dallo scandalo intercettazioni in Gran Bretagna, vi parleremo delle nuove regole comunitarie sulla produzione di biocarburanti e, come sempre questo mese, per lo sport vi daremo le ultimissime dal Tour de France. In apertura, come dicevamo, il vertice dei leader dell'Eurozona, al termine di un summit maratona durato circa 8 ore, i 17 capi di Stato e di Governo hanno raggiunto l'intesa. Alla Grecia andrà un nuovo prestito da 109 miliardi di euro, è stata inoltre confermata l'estensione di questo prestito da un minimo di 15 anni fino a un massimo di 30. Il contributo netto del settore privato per il salvataggio greco è stimato a 37 miliardi di euro. Il secondo programma di aiuti ellenico prevederà anche tassi di interesse più bassi. Ad annunciare per primo l'approvazione del piano è stato come sempre il presidente europeo Herman Van Rompuy mediante il tradizionale messaggio su Twitter. I leader dell'Eurozona hanno dimostrato un impegno determinato a favore della Grecia, così il presidente francese Nicolas Sarkozy al termine dell'Eurogruppo. Un'Eurozona prospera è vitale per il bene della Gran Bretagna, lo ha affermato il vice primo ministro britannico Nick Clegg parlando delle aspettative sul vertice in una conferenza stampa dedicata allo scandalo intercettazioni. E vediamo anche com'è andata la giornata di ieri in Europa con le borse che hanno brindato in anticipo sull'onda delle voci di un accordo sulla Grecia ormai imminente. Le borse europee hanno festeggiato ieri la prospettiva dell'accordo tra i paesi dell'Eurozona per il salvataggio della Grecia. I listini guidati dal rally delle banche hanno allungato il passo proprio mentre dal vertice, impegnato in trattative a oltranza, filtravano le prime indiscrezioni sull'intesa. A guidare i rialzi sono stati i paesi periferici della zona euro, quelli che di recente avevano più risentito della crisi del debito. La maglia rosa è stata Milano, che ha guadagnato il 3,42% sul FTSE All Share e il 3,76% sul FTSE MIB. Nella volata delle banche hanno fatto segnare rialzi vicini ai 10 punti percentuali le Big Unicredit più 9,95% e Intesa San Paolo più 9,54%, affiancate da UbiBanca salita del 9,97%, poco sotto tutte le altre, in un settore che complessivamente a livello europeo ha guadagnato oltre il 4%. Paolo Paronetto da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Voltiamo ora pagina con le ultime sullo scandalo intercettazioni in Gran Bretagna. La crisi veramente non sembra avere fine in servizio. Si aggrava la posizione di Andy Coulson, ex direttore del News of the World ed ex portavoce di David Cameron, mentre cresce l'impressione che le pratiche di spionaggio a fini più o meno giornalistici fossero estese a molti media oltre il perimetro del gruppo Murdoch. Che così facciano tutti o almeno molti in Gran Bretagna lo aveva già detto nel 2006 l'Information Commissioner Office, un'authority che aveva svolto un'indagine sulla privacy nel Regno Unito, denunciando decine di giornali pronti a prendere detective per scavare nella vita privata dei cittadini. Scotland Yard ha chiesto tutte le risultanze di quell'inchiesta ed ora spulcia le altre testate, fra cui svetta il Daily Mail. In attesa che possano esserci sviluppi sensazionali una volta di più, secondo fonti non confermate, la polizia avrebbe raccolto elementi a carico di Andy Coulson, che sarebbe stato al corrente dei pagamenti effettuati a favore degli ufficiali di polizia in cambio di informazioni, un'accusa che l'ex portavoce di Downing Street ha sempre rigettato. Se così sarà, per David Cameron l'area si farà davvero irrespirabile. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Il leader libico Muammar Gheddafi può rimanere in Libia, ma lasciando definitivamente la scena politica. Lo ha affermato il ministro degli esteri francese Alain Juppé. Ma cosa c'è dietro questa svolta francese? Sentiamo Marco Giaconi del Centro Militare Studi Strategici. La proposta di Juppé deriva con grande probabilità da 3 valutazioni strategiche. La prima è che certamente la durezza del regime è stata mal valutata. La seconda è che con uguale certezza il National Transitional Council è più frazionato al proprio interno. Terzo, che gli Stati Uniti e soprattutto in questo caso Cina e Russia intendono accettare lo status quo in Libia, ma non intendono muovere poco più di un dito per modificarlo da qui ai prossimi mesi. Salvaguardare foreste e biodiversità dalle coltivazioni selvagge destinate alla produzione di biocarburanti, questo è l'obiettivo delle nuove regole proposte dalla Commissione europea in settimana. Bio non significa per forza sostenibile, almeno nei carburanti. La Commissione europea ha da poco lanciato un'iniziativa, il bollino di sostenibilità ambientale sui metodi di produzione dei diesel bioderivati. Se da una parte il loro utilizzo riduce le emissioni di gas serra, infatti, dall'altra alcune delle coltivazioni con cui sono prodotti, ad esempio la colza, possono essere negative per l'ambiente, perché portano deforestazione e danni agli ecosistemi. Inoltre, il cambio di coltura nei terreni agricoli, denunciano le ONG, conduce a un'impennata dei prezzi degli alimenti. Problema destinato ad acuirsi. Secondo uno studio europeo, entro il 2020 la domanda di carburante porterà le colture delle terre a occupare una superficie pari a quella dei Paesi Bassi. In Italia, intanto, Greenpeace denuncia un'alta percentuale di diesel derivante da olio di palma, una delle colture dannose. Secondo Coldiretti, però, si tratta di prodotti di importazione da Paesi del Sud, perché da noi l'interesse è molto basso e non c'è filiera. Gli standard europei proposti sono ancora troppo laschi, secondo loro. E con gli obiettivi sulle emissioni fissati dall'UE, ciò sarebbe addirittura dannoso perché spingerebbe all'utilizzo di questi prodotti che spesso sostituiscono colture alimentari e vengono importati via nave. Cosa molto poco sostenibile. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il nuovo bollino proposto dalla Commissione per i metodi di produzione dei biocarburanti sarà comunque obbligatorio, pena l'esclusione per i governi dal conteggio delle quote ai fini degli obiettivi europei sulle emissioni fissati per il 2020. Abbiamo intervistato Marlene Holzner, la portavoce del commissario europeo all'energia Günther Oettinger. Non si può abbattere delle foreste per produrre sullo stesso posto i biocarburanti, questo è escluso. Adesso con questi certificati noi abbiamo detto, imprese, anche organizzazioni che vorrebbero fare questo per la Commissione europea, possono fare domanda. Noi poi facciamo un controllo di questa impresa e diamo la possibilità di fare questi controlli per noi, la Commissione europea. Questo abbiamo fatto, ne abbiamo scelte 7 imprese che lo fanno per noi. Queste regole saranno obbligatorie nel senso che se un'impresa vorrebbe importare dei biocarburanti oppure anche produrre biocarburanti in Europa, dovrebbe fare in modo che ha questo certificato. E questo certifica che la produzione è stata in un modo sostenibile. Le norme comunitarie consentono di vietare agli impianti eolici nei siti protetti che fanno parte della rete ecologica Natura 2000 e quanto sottolinea la Corte di Giustizia europea in una sentenza relativa alla causa che vede opposta la Regione Puglia all'azienda agro-zootecnica Franchini e alla eolica Altamura. È mio auspicio che il Belgio sappia trovare le risorse ideali dalle quali ogni Stato nazionale deve trarre continuamente alimento e per questa via dare il proprio prezioso contributo a un'Europa chiamata a fronteggiare gravi sfide internazionali e a rispondere alle istanze dei cittadini comunitari per una società più giusta e solidale. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio inviato al Re del Belgio Alberto II in occasione della festa nazionale. Per chiudere come sempre lo sport, Tour de France, Andy Schleck ha trionfato nella 18ª tappa ma non è riuscito a strappare la maglia gialla che rimane ancora sulle spalle di Thomas Voeckler. Il servizio. Questa volta i fratelli Schleck fanno saltare il banco, soprattutto il più giovane Andy che vince il tappone alpino del Galibier scattando i piedi dell'Isoar quando mancavano 60 km al traguardo e dopo aver sfruttato il lavoro di Montfort mandato in avanscoperta ha scalato tutto solo il Galibier firmando l'impresa più bella di questo Tour de France. Alle spalle del lussemburghese volanti per molti chilometri i bighi si sono guardati al punto che il vantaggio di Andy è arrivato a sfiorare i 4 minuti e mezzo. Poi ci ha pensato Cadel Evans che ha recuperato terreno e ha sfoltito il gruppo. Alla fine il secondo posto è stato di Frank Schleck davanti a Evans, Ivan Basso e a uno straordinario Thomas Volker che ha conservato la maglia gialla per 15 secondi. Nel finale ha perso qualche secondo Cunego ma è saltato Contador che ha pagato 3,50 anche a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio. In classifica generale Voeckler precede i fratelli Schleck, Indy di 15 secondi e Frank di 1,08, poi Evans è quarta 1,12 e quinto e sesto i fratelli d'Italia, Cunego e Basso incredibilmente a pari tempo, 3 minuti e 46 della maglia gialla e domani tappa col Telegraph, Galibier e Alpe d'Huez per cercare di salire ancora un po'. Piero Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Galibier. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo il consiglio informale della competitività a Sopot insieme all'Ecofin dedicato al budget a Bruxelles. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.